Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Diciamo che io sono un po' influenzato da quella che è la percezione anche degli stranieri, che quando si parla d'Italia è sempre sinonimo di grande raffinatezza, di grande stile, quindi sono molto orgoglioso di essere italiano e quando mi capita torno volentieri. Molti di voi vivranno qui all'estero, vivranno qui a Bruxelles, che poi per molti aspetti non è più neanche estero, perché con l'importanza e il ruolo che hanno le istituzioni europee è fondamentale per voi probabilmente tenere aperto il contatto con le... Però il racconto degli italiani all'estero è di un noioso. Dice, lo dite a me? Sì, lo dico a ciascuno di voi. Perché c'è un'idea di Italia in cui andare all'estero sia una sconfitta. In alcuni casi è una sconfitta, per carità di Dio, ma nella stragrande maggioranza dei casi è un'opportunità. Il problema non è chi va via, il problema è se il paese è pronto a tentare di farvi tornare. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. È un'insolita accoppiata, quella tra il musicista Rafael Gualazzi e il premier Matteo Renzi, quella che apre la nostra puntata. I due hanno interagito al recente Italian Innovation Day a Bruxelles. C'è chi, come Gualazzi, ha scelto come base operativa Londra e chi, come Renzi, prova a girare in positivo il problema della fuga dei talenti. Condividiamo. Il problema è far tornare i nostri migliori giovani, convincerli che questo è il posto giusto dove investire per il proprio futuro. Ma la premessa indispensabile è porre le condizioni per farlo e questo è compito del governo. Proprio Londra sarà la base, il perno su cui ruoterà la nostra puntata. Vi racconteremo la storia di due giovani start-upers italiani che hanno scelto di sfidare dalla capitale britannica un monopolio. E restate con noi tra poco, col presidente dell'Istat Alleva, commenteremo anche i nuovi dati sui dottori di ricerca. La frase della settimana invece è copyright del nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Esistono nel nostro Paese energie che attendono soltanto di trovar modo di esprimersi compiutamente. Penso ai giovani che coltivano i propri talenti e che vorrebbero vedere riconosciuto il merito. Oggi vi anticipavamo puntata dedicata ai nostri giovani start-upers all'estero. Quale premessa basti ricordare che in Italia lo sviluppo dei talenti imprenditoriali non è andato di pari passo con la crescita delle competenze tecnologiche necessarie per una migliore competitività delle nostre imprese. Lo denuncia il report Empirica sullo stato delle competenze digitali. E aggiunge Gianmarco Carnovale, presidente di Roma Startup, il sistema italiano ha soprattutto un deficit di capitale di rischio. Il comparto è valido, ci sono talenti, energie, giovani che ci credono, gli incubatori e gli acceleratori privati, ma la differenza tra le nostre startup e quelle straniere è che se in Francia è disponibile 1 miliardo di venture capital, in Italia ci sono 40 milioni l'anno. Questo rappresenta un gap enorme. Tanto terreno da recuperare, quindi, e in fretta. Oltre manica, tutto va più veloce. In Inghilterra ti dicono fai l'imprenditore, apri la tua compagnia e poi cresce e poi verrà tassato. In Italia è esattamente il contrario, ti dicono prima ti tassiamo, poi ti fai venire l'idea e poi ti ritassiamo. Francesco Danieli, 34 anni, è il CEO della startup SoundReef in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura ricordiamo il calo della disoccupazione giovanile, scesa a dicembre al 42%, ma attenzione, è solo un segnale di speranza. I giovani inattivi risultano in aumento di quasi un punto percentuale in un mese. C'è pure una buona notizia, la Commissione europea ha deciso di aumentare il tasso di prefinanziamento dell'iniziativa per l'occupazione giovanile. L'Italia beneficerà di 170 milioni invece dei 5 previsti. E ora ci occupiamo di una recente ricerca dell'Istat che delinea un forte incremento nell'espatrio dei dottori di ricerca italiani, sottolineando come al contempo la percentuale di inserimento lavorativo nella penisola sia alta. Ma restano due criticità, il divario nei salari estero-Italia e le scarse prospettive di carriera nel bel paese. A Giovani Talenti il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, riassume così lo studio. I dottori di ricerca che dichiarano di vivere abitualmente all'estero sono il 12,9% del totale e ammontano a 2.900 individui. Di questi il 22% sono di nazionalità straniera. È raddoppiato rispetto ai dottori di ricerca del 2006 questa incidenza, che quindi è aumentata di circa 6 punti percentuali. È un fenomeno fortemente in crescita, tuttavia abbiamo un dato del 13%, a testimonianza comunque che la grande maggioranza di dottori di ricerca trova collocazione sul mercato del lavoro nazionale. Lei ha un background accademico, la stupisce questo incremento? Mi stupisce, anche se me lo aspettavo, perché so bene di quanto oggi i nostri ragazzi, specialmente quelli più preparati, guardino nelle prospettive, non solo a quelle del nostro paese. Devo sottolineare tuttavia che ancora la propensione alla mobilità nel nostro paese è piuttosto ridotta, e quindi questa fuga dei cervelli, secondo me, in realtà contiene elementi positivi. Sicuramente un incentivo a questa mobilità, lo dite voi stessi, è il reddito, che è sensibilmente superiore all'estero per un dottore in ricerca. È sensibilmente superiore, mediamente tra i 700 e gli 800 euro netti al mese. Tuttavia, i motivi che spingono maggiormente le persone a trovare un lavoro stabilmente all'estero riguardano soprattutto l'opportunità di lavorare, in particolare di avere un lavoro qualificato. Andiamo a vedere ora invece i dottori di ricerca che restano in Italia. Qui le statistiche sono buone, nel senso che comunque c'è un alto tasso di inserimento professionale. A quanto ammonta? A 4 anni dal conseguimento del titolo lavorano mediamente ben il 91% dei dottori di ricerca. La cosa interessante è che questo elevato valore ce lo ritroviamo anche per i diversi settori e aree disciplinare dei dottorati. Il dottorato di ricerca sembrerebbe dare un vantaggio competitivo a prescindere sia dall'area disciplinare prescelta sia anche dal luogo di residenza degli individui. I problemi della ricerca in Italia li conosciamo bene, anche i problemi dei giovani che vogliono inserirsi nella ricerca in Italia li conosciamo bene. Allora quello che le chiedo è se c'è un alto inserimento, però c'è soddisfazione, oppure è un inserimento con tanti paletti e tante difficoltà? Gran parte dei dottori di ricerca dichiarano di effettivamente essere soddisfatti in attività lavorativa, sono invece meno soddisfatti sulle possibilità di carriera e la sicurezza del lavoro, e questo è l'elemento dolente, è che la parte delle prospettive che sembra più debole. Vorrei sottolineare a questo proposito che il problema dell'espatrio non è tanto in andata quanto in ritorno. Va benissimo che i nostri ragazzi pensino di andare all'estero, ma la cosa importante sarebbe avere un saldo positivo e quindi riuscire anche ad attrarre lavoratori giovani e qualificati dall'estero. Invece il nostro saldo è negativo, e non soltanto. I nostri ragazzi che hanno avuto dei posti di lavoro qualificati all'estero hanno difficoltà a rientrare. Intanto la conferenza dei rettori italiana propone al governo una serie di misure per rendere l'università più giovane e più europea. I rettori chiedono in sostanza un piano per svecchiare gli atenei in grado di ridurre drasticamente l'età media dei docenti e dei ricercatori, accelerando l'ingresso di giovani studiosi e arrestandone la perdita degli ultimi anni. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna, paese che ha pochi concorrenti in Europa in quanto a facilità di fare impresa. Nome: Francesco. Cognome: Danieli. Età: 34 anni. Città di origine: Milano, in provincia di Venezia. Studi: Istituto Tecnico Informatico in Italia, corsi professionali in Inghilterra. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 1999. Per andare dove? In Inghilterra. Perché? Because the world is your oyster. Qual è il lavoro svolge attualmente? Sono il CEO della Soundrix. Dove? A Londra. Tornerai? Magari. Siamo sempre stati convinti che la concorrenza anche nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore sia legittima e auspicabile, perché produce effetti positivi spingendo gli attori a operare meglio e in condizioni di efficienza. Così Francesco ha dichiarato pochi mesi fa insieme al tuo socio Davide D'Atri, che tra poco conosceremo, a commento di una storica causa che avete vinto contro ogni aspettativa. E allora la mia domanda di partenza è: proprio la mancanza di un sano regime di concorrenza in Italia ha posto le basi del declino e della mancanza di spazio per i giovani, Francesco? Sì, credo di sì. Credo che il non credere nei giovani, il non aprire il mercato alla libera concorrenza abbia bloccato l'innovazione e gli investimenti. La tua storia in breve, Francesco. Originario del Veneto, fin da giovanissimo ti appassioni al World Wide Web, fondando nel 96 quello che all'epoca era l'antenato del sito internet, il BBS. Cosa ti ha contagiato nella tua passione per il web? Il web a un certo punto ha dato un senso vero a quello quello che prima era una scatola isolata che ti permetteva di giocare contro la scatola appunto, o al massimo fare di calcolo, ad un certo punto si è capito che la connessione tra queste macchine era la vera rivoluzione. La cosa davvero interessante è il giudizio che dai della scuola italiana. All'epoca frequenti l'istituto tecnico a indirizzo informatico e, nonostante quelli siano anni di grande cambiamento tecnologico, noti una clamorosa mancanza di vision da parte dei tuoi professori. In cosa si concretizzava questa mancanza? Invece che stimolarci e spingerci verso quello che sarebbe stato una delle professioni del futuro, mi ricordo una frase che mi dicevano i miei professori: voi andrete a finire a correggere centinaia di migliaia di linee di codice altrui andando a cercare le virgole mancanti. Questo mi ha sempre bloccato. Motivante, davvero motivante. Sì, così, davvero motivante. Così decidi di abbandonare gli studi in Italia. Allora, a distanza di anni, rimpiangi quella scelta o ritieni che il nostro sistema formativo sia meno stimolante al passo coi tempi rispetto ad altri paesi? Beh, credo, la mia esperienza appunto è quella in Inghilterra, dove ho frequentato vari corsi. Credo che qui le cose siano un po' diverse anche a livello di istruzione. In Italia forse ci stiamo adattando piano piano. Di punto in bianco, ancora molto giovane, ti trasferisci a Londra. Perché proprio la capitale britannica? La capitale britannica, Londra, è stata sempre il punto di riferimento per la musica e per la tecnologia in Europa. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno. E allora, all'inizio a Londra sono segnati dalla musica, ti esibisci per diversi anni con la tua band, frequenti l'ambiente della musica indipendente locale, ma non abbandoni la tua altra grande passione, l'informatica. Riprendi gli studi, questa volta oltre manica. Allora, quali differenze trovi nell'insegnamento rispetto all'Italia? La praticità, il basarsi su quello che saranno concretamente i problemi che gli studenti troveranno nel mondo del lavoro. Tutto questo in Italia ancora manca, troppa teoria, troppi insegnamenti un po', diciamo, campati in aria, mentre qui la praticità è primaria. E questo lo dicono purtroppo tutti. Ora, prima di arrivare al nucleo della storia, introduciamo Davide D'Atri. Buon pomeriggio, Davide. Buon pomeriggio a tutti. Che ne racconto che facciamo oggi è tra i due il cosiddetto controesodato, chiamiamoti così. Davide, domanda secca: perché a 30 anni, dopo 10 anni oltre manica, hai deciso di tornare in Italia? Perché l'Italia è un paese splendido e secondo me ci sono grandi opportunità, soprattutto adesso che c'è grandi crisi. Allora, anche per te, Davide, un espatrio molto precoce. A soli 19 anni, terminato il liceo, voli oltre manica per studiare economia alla University of Essex. Perché una scelta così netta e soprattutto fatta così giovane? In realtà la mia scelta a 19 anni è stata una scelta quasi adolescenziale. A me piaceva molto stare in una metropoli, vivere in una metropoli, e sono andato a vivere in una metropoli. Non c'era grande profondità nella mia scelta. Col senno di poi, ti sei pentito di non aver studiato in Italia? Che voto dai alla qualità dell'insegnamento superiore inglese? No, questo devo dire la verità, a guardarla a posteriore sono molto contento di aver studiato in Inghilterra, perché per il mio carattere al tempo l'Inghilterra mi aiutò moltissimo, mi incanalò e probabilmente ho fatto un ottimo percorso di studi perché l'ho fatto in Inghilterra. In Italia probabilmente forse mi sarei un po' perso, sarebbe stato un po' diverso. Da 1 a 10 che voto dai alla... l'insegnamento inglese? 10, assolutamente 10. E dopo la laurea ti iscrivi a un master in International Business Economics alla City University of London, poi cominci a lavorare presso un music publisher fino a quando nel 2004 incontri Francesco. E qui torniamo a Francesco. Come nasce e cos'è soprattutto Bitpick, la vostra prima startup? Bitpick nasce di notte, mentre noi, sia io che Davide, lavoravamo o studiavamo, quindi nel tempo libero. Nasce soprattutto con un capitale ridottissimo messo da noi, circa 3.000 pound. Bitpick, che cos'è? Bitpick è una piccola compagnia che licenzia musica per film, TV e pubblicità. All'epoca molto innovativa, perché eravamo i primi ad utilizzare licenze Creative Commons insieme alle licenze commerciali. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesco Danieli, 34enne CEO della startup Soundreef di Stanza a Londra, e di quella di Davide D'Atri, presidente di Soundreef, controesodato nel frattempo in Italia. Storia di un'idea aziendale nata oltre manica, sviluppatasi in un ecosistema imprenditorialmente fertile e trasformatasi nel giro di pochi anni nella versione moderna di Davide contro Golia. Come una startup italiana in Inghilterra ha sconfitto uno dei nostri monopoli. Arriverà dai nostri giovani all'estero l'atteso vento del cambiamento? Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Davide, cosa vi ha spinto a lanciarvi nel mondo del business? Quale ecosistema imprenditoriale avete trovato in Gran Bretagna? Certamente sia nel percorso formativo sia nell'ecosistema lavorativo vieni costantemente incoraggiato a provare a fare e a creare una tua iniziativa. Questa è una cosa radicalmente differente dall'Italia, dove invece effettivamente succede il contrario. Se posso riassumere in una parola, rischiare. Assolutamente, viene introdotto da subito il concetto di rischiare, ma soprattutto, cosa molto importante, viene considerato il fallimento come qualcosa di possibile e non come una tragedia. In Italia noi consideriamo il fallimento una vera tragedia e questo è un grosso problema. Francesco, tu descrivi Londra come una fucina di nuove idee imprenditoriali, un catalizzatore di menti brillanti. Cosa trasporteresti del modello londinese in Italia per permettere anche al nostro paese un salto di qualità? A parte quello che ha detto Davide, che mi trovo perfettamente d'accordo, la metterei così: in Inghilterra ti dicono fai l'imprenditore, apri la tua compagnia e poi cresci e poi verrai tassato. In Italia è esattamente il contrario, ti dicono prima ti tassiamo, poi ti fai venire l'idea e poi ti ritassiamo. Hai riassunto in modo splendido, complimenti. Torniamo a Davide, 4 anni fa riprendi nelle mani un'idea che coltivavi dai tuoi anni universitari, un'idea che va al cuore del problema dei diritti d'autore musicali. Partiamo dal nocciolo della questione, l'assoluta mancanza di concorrenza a livello europeo nel settore diritti musicali. Ci spieghi meglio. Ero affascinato dal fatto che l'industria della musica non seguisse alcune regole principali dell'economia e non rispettasse alcune leggi basic dell'antitrust a livello europeo, e quindi osservavo che c'erano 27 società in 27 nazioni che si erano divisi 27 territori. 27 monopoli. 27 monopoli. Questo io lo trovavo assolutamente affascinante. Non è che io avessi ben chiaro in mente che fosse illegale, ma lo guardavo con estrema curiosità. Non esiste un'altra industria di questo tipo, neanche l'acqua è così. E a quel punto, Davide, nasce l'idea di Soundreef, di cui sei attualmente presidente. Allora, spiegacela nel modo più semplice possibile. Come funziona la vostra startup? Soundreef è un'azienda inglese che, invece di operare soltanto in Inghilterra, come fanno le collective society di solito, opera in tutta Europa. Perché? Perché noi crediamo che nelle royalties si possa fare moltissimo per renderle più efficienti, più trasparenti e più veloci il pagamento e l'accounting. Francesco, premettendo che tu di Soundreef sei il CEO, tornando al tema dell'ecosistema imprenditoriale in Gran Bretagna, è straordinario il successo che avete riscosso in termini di raccolta di capitali. Quanto venture capital avete ottenuto e in quanto tempo? L'abbiamo ottenuto innanzitutto nel 2011, quando il termine venture capital ancora non era assolutamente capito e compreso in Italia. Abbiamo ottenuto quasi 1 milione di euro in poche settimane. 1 milione di euro, però ci sono anche capitali made in Italy, no? Ci sono investitori privati anche in made in Italy, sì. Quindi quantomeno c'è un po' di Italia nei capitali di Soundreef di partenza. Certo. Francesco, 4 anni dopo la sua fondazione, cos'è diventata Soundreef, soprattutto in termini di internazionalizzazione? Soundreef è diventata una compagnia che vende in 22 paesi nel mondo e ha circa 60.000 artisti provenienti da tutto il pianeta. Davide, di voi si è parlato molto in Italia lo scorso autunno, quando avete vinto una storica causa intentatavi da una cantautrice e da una radio specializzata nella creazione di playlist per centri commerciali. In sostanza, veniva chiesto alla magistratura di inibire la vostra attività nella penisola sulla base dell'articolo 108 sulla legge del diritto d'autore, che attribuisce in esclusiva alla SIAE la gestione dei diritti. Cosa ha stabilito invece il Tribunale di Milano? Il Tribunale di Milano ha stabilito una cosa molto semplice: dato che in Europa c'è la libera circolazione di merci e servizi, non si comprende come mai sia possibile dire a una società inglese che non può operare fuori dall'Inghilterra, in particolare sul territorio italiano. E qui mi aggancio, Davide, qui mi aggancio, perché per paradosso la causa l'avete vinto in quanto azienda inglese, grazie anche alla dimensione europea in cui vi muovete. In termini assolutamente pratici, se voi ora decideste di spostare Soundreef in Italia, lo potreste fare? Potremmo fare alcune attività che fa la Soundreef, ma non altre attività che fa la Soundreef. Quindi la risposta è: se la dovessimo spostare per intero, no, non sarebbe possibile. Pazzesco. Francesco, questa sentenza rappresenta il segnale che un certo mondo è cambiato, che è finita l'era dei diritti acquisiti, che i piccoli Davide innovativi e tecnologici stanno vincendo la loro battaglia contro i Golia dei monopoli e delle rendite di posizione, persino in Italia, potremmo dire, no? Crediamo che un libero mercato non possa che giovare al pubblico, agli utenti e un po' a tutti. Il mondo sta cambiando, insomma. Speriamo. Francesco, ci scrivi: purtroppo la ricchezza più importante dell'Italia e i suoi giovani hanno smesso di credere nel paese, hanno seguito la strada dell'immigrazione per poter coltivare i propri sogni. Londra, aggiungo io, nel 2013 ha fatto registrare un boom di espatri pari all'81% tra i 20 e i 40 anni italiani. Confermi da Londra questa invasione e che storie senti raccontare quando incontri i tuoi connazionali? Assolutamente sì, confermatissima. Qui negli ultimi anni veramente si è sentito che la presenza degli italiani è aumentata esponenzialmente, dal pizzaiolo che fa una pizza stupenda, perfetta, al tecnico informatico, programmatore che viene qui, il feedback che sento è che sono tutti molto molto contenti di essere trattati professionalmente molto bene. Questo non vuol dire che poi non sia difficile vivere e lavorare a Londra. Davide, in Italia tu sei tornato, l'abbiamo detto, ma la tua azienda e il suo cuore imprenditoriale restano oltre manica. Allora ti chiedo, quale potenziale concreto vedi per un controesodo di giovani imprenditori e professionisti di talento al lavoro qui o con attività imprenditoriali basate in Italia? Tu ci scrivi: in Italia bisogna stare adesso, c'è da ricostruire il paese, non abbandonarlo. Ma io ti chiedo come? Assolutamente possibile. In Italia cominciano ad esserci delle opportunità anche per investimenti privati in alcune nostre idee che nascono in Italia. È possibile, è molto difficile, la burocrazia è complessa, certamente ci sono delle rigidità strutturali importanti, ma è possibile, io incoraggio a farlo e ci sono alcuni operatori italiani che adesso cominciano ad aiutare i giovani. Speriamo. Allora, avete ascoltato, questa è una puntata abbastanza anomala nella sua struttura e per questo abbiamo accorpato le nostre domande di rito. La prima è per Francesco: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? La prima cosa che non va, appunto, come diceva Davide, è la burocrazia. L'Italia deve diventare un ecosistema anche qui di start-up, di innovazione, di imprenditoria, sostenendola e rimuovendo tutti quegli ostacoli burocratici, legali, fiscali che al momento strozzano questo tipo di business. E la seconda domanda di rito è per Davide: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Io credo che sia importantissimo un momento all'estero, soprattutto durante gli studi, ma in generale se sei italiano e stai pensando che non c'è futuro in Italia, non è vero. Se lavori tanto e ti impegni e hai una passione vera per qualcosa, credo che sia possibile fare in Italia adesso. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, come ogni primo sabato del mese, l'appuntamento con la rubrica Andata, a cura di Aldo Mencaraglia di Italians in Fuga. Aldo ci lancia una provocazione. Quando si decide di espatriare, afferma, sempre meglio iniziare scartando le mete dove non andare. Quando state pensando di emigrare verso l'estero, decidere verso dove non emigrare è spesso più importante del decidere verso dove emigrare. Capire gli aspetti negativi che caratterizzano la vita in altre nazioni estere può salvarci da tentativi di espatrio dei quali ci pentiremo. Innanzitutto il clima, uno degli aspetti più importanti, soprattutto a lungo termine. Ad esempio, attenzione a puntare verso paradisi tropicali perché, oltre al caldo, spesso si ha a che fare con umidità e pioggia a livelli sconosciuti in Italia. D'altro canto, non sottovalutate l'impatto sulla vostra vita quotidiana che il vivere nel nord Europa può avere a causa di un clima più freddo e grigio. Rischi ambientali. In alcune nazioni dovrete affrontare calamità naturali come uragani oppure terremoti con frequenza inquietante. Attenzione a scegliere quindi ad esempio il Giappone o Taiwan. Prospettive economiche. Non scegliete una destinazione caratterizzata da un'economia fragile o con prospettive future negative. Rischiate di cadere dalla padella nella brace. La legalità. Per quanto si possa avere un'opinione negativa dell'Italia su questa tematica, ci sono nazioni messe peggio. Soprattutto per gli stranieri, ci sono nazioni che offrono poche tutele e quindi attenzione a scegliere ad esempio alcune nazioni del Centro e Sud America, dell'Africa oppure dell'Asia. Dopodiché la libertà. In molte nazioni vi sognate la libertà di espressione disponibile in Italia e in Europa. Discriminazione in base alla propria religione, al proprio orientamento sessuale oppure in base alle proprie convinzioni politiche rendono la vita in molte nazioni del mondo tutt'altro che facile. Poi lo stile di vita. I cittadini in alcune nazioni socializzano bevendo quantità enormi di alcol, in altre nazioni si socializza molto meno che in Italia, mentre in altre nazioni costringono a convivere con un alto tasso di inquinamento atmosferico. Poi gli aspetti demografici. Alcune nazioni come l'Italia, la Germania e il Giappone sono caratterizzate da una società demograficamente anziana. È naturale che nazioni più giovani offrano più dinamismo e magari opportunità. Riassumendo, pensate a dove non volete andare. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansinfuga.com, email italiansinfuga@gmail.com.